Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Corruzione in manette l'imprenditore Alfredo Romeo nell'inchiesta Consip. Consip è la stessa nella quale sono coinvolti Tiziano Renzi e il sottosegretario Lotti. L'Istat conferma PIL 2016 in crescita dello 0,9%, debito in risalita, deficit in calo, scende la pressione fiscale al 42,9%. Crescita ancora lenta, dice Padoan, servono più riforme. Tesseramenti anomali, sono ancora a Napoli i problemi del Partito Democratico, nel quartiere di Miano in fila per avere la tessera gratis, a Castellammare 100 pagate con la stessa carta di credito. Il caso di DJ Fabo Marco Cappato è indagato dalla Procura di Milano dopo essersi autodenunciato, l'ipotesi è aiuto al suicidio. Fillon, convocato dai giudici per il 15 marzo, si presenta alla stampa, non mi arrendo e non mi ritiro, dice voci smentite di un fermo della moglie Penelope. Dopo le polemiche per la vittoria della Juventus sul Napoli, stasera per la Coppa Italia si gioca il derby della capitale, Roma e Lazio, in campo alle 20:45. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms e primi messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it, l'email e naturalmente la pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Iniziamo con le notizie dunque. In apertura l'indagine sulle ipotesi di corruzione in Consip, sentiamo. L'arresto dell'imprenditore campano Alfredo Romeo è l'ultimo sviluppo del fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Napoli e trasferito per competenza a quella di Roma sulla corruzione in relazione agli appalti della Consip, la società per azioni del Ministero dell'Economia incaricata dell'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. Proprio l'accusa di corruzione ha portato Romeo in carcere. Un dirigente Consip, Marco Gasparri, secondo gli inquirenti, avrebbe favorito le società riconducibili all'imprenditore in cambio di somme di denaro versate in contanti. Per Romeo è scattato anche il sequestro di denaro di 100.000 euro. Sempre questa mattina è stata perquisita l'abitazione dell'ex parlamentare di AN e confidente di Romeo, Italo Bocchino, mentre nel registro degli indagati, tra gli altri, figurano i nomi di Luca Lotti, attuale ministro dello sport, del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette, e del padre di Matteo Renzi, Tiziano, per il reato quest'ultimo di traffico di influenze illecite. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono problemi per il Partito Democratico in questa fase pre-congressuale che riguardano le tessere. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, diremo i tesseramenti anomali, le tessere false, insomma, sui tesseramenti anomali a nord di Napoli, nella sede del PD di Miano, idem, passano al contrattacco. Che cosa è successo? Nel video pubblicato da Repubblica si vedono gli aderenti che si iscrivono in massa al partito gratuitamente nell'ultimo giorno utile. Solo la carta d'identità, spiega una signora, i 10 euro non li versiamo noi, ve li danno loro. E a versare i soldi ci sarebbe stato Michele Di Prisco, coinvolto anche nelle primarie del 2011, poi annullate. A Castellammare poi 100 tessere online sono state pagate con la stessa carta PayPal per un ammontare di 1.600 euro, 16 euro a tessera. Una situazione non tollerabile secondo il presidente Dem Matteo Orfini, che promette di inviare commissari che accompagnino il percorso congressuale per scongiurare ogni rischio. Emanuele Fiano sarà a Napoli per un attento esame sulle irregolarità e sarà fatta chiarezza nel rispetto dei militanti PD. Già da oggi, dice Orfini, prenderemo le dovute misure. Roberto Alessandro, segretario del circolo PD di Miano, spiega di aver denunciato certe pratiche in passato e che lui non era presente in quel famoso pomeriggio in cui c'è il tesseramento sospetto. Gli episodi poi riportati dalla stampa sono di una gravità estrema, dice il segretario regionale del PD Assunta Tartaglione. A te Simone. E grazie ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento e per lo sforzo, come avete sentito la voce della nostra Elisabetta Fiorito, non è proprio al massimo in questi giorni. Di questa vicenda torneremo a parlare più avanti, lo faremo col segretario provinciale del Partito Democratico proprio a Napoli. Veniamo ai dati diffusi questa mattina dall'Istat. Un decimale in più rispetto alle previsioni, in crescita anche se lenta l'economia italiana, che non abbandona comunque lo zero virgola. Il prodotto interno lordo del nostro paese ha registrato nel 2016 un aumento dello 0,9%, appena al di sopra del livello registrato nel 2000. E l'Istat, che conferma come definitive le sue stime del 14 febbraio scorso, segnala anche una leggera accelerazione rispetto al 2015. Inoltre, evento piuttosto raro, lo 0,9% è superiore alle stime del governo, che nel documento programmatico di bilancio indicava una crescita dello 0,8% dopo lo 0,7% del 2015. Il dato è anche in linea con le stime europee. La crescita del PIL è accompagnata da un'espansione delle importazioni di beni e servizi del 2,9% e l'export è cresciuto meno rispetto all'import e cala anche il rapporto deficit-PIL al 2,4%. Rimangono ancora zone d'ombra, rallentano i consumi delle famiglie anche se crescono gli investimenti e la pressione fiscale è scesa al 42,9% del PIL, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente e in controtendenza rispetto al passato. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è il primo commento via Twitter del ministro dell'economia Piercarlo Paduan. Dice: la crescita è ancora troppo lenta, come prima della crisi. Per creare occupazione e benessere dobbiamo liberare energie realizzando riforme. Queste le parole di Paduan. Ci spostiamo in Francia e andiamo alla vicenda di Fillon. Seul le suffrage universel et non pas une procédure menée à charge peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout. Anche per chi non parla francese, come del resto il sottoscritto, si capisce abbastanza bene. E questo è Fillon che, a differenza di quello che ci si attendeva nella mattinata, ha deciso di non ritirarsi dalla corsa per la presidenza. Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, che invece il francese naturalmente lo parla. Marco, buongiorno, eccoci. Buongiorno, vi parlerò in italiano. Sì, meno male, vai. Sì, è stata una mattinata di alta tensione, iniziata alle 8, poco dopo le 8, con un brevissimo comunicato in cui Fillon annunciava la cancellazione della visita al Salone dell'Agricoltura, che è un appuntamento, una tappa imprescindibile, classica delle campagne presidenziali francesi. E subito dopo c'è stato l'annuncio di una dichiarazione solenne, ufficiale, molto formale, a mezzogiorno dal quartier generale della campagna di Fillon. Si è subito pensato all'annuncio di un ritiro dovuto all'inchiesta sul presunto lavoro fittizio della moglie e dei figli come assistenti parlamentari di Fillon, che peraltro sta inquinando la sua campagna ormai da 3 settimane. In realtà Fillon ha deciso, dopo aver riunito un vertice di crisi con i dirigenti del partito, gli avvocati, aver parlato con Juppé, con Sarkozy, ha deciso di contrattaccare annunciando appunto di aver ricevuto una convocazione dai giudici, dai magistrati della procura finanziaria che indaga su questa vicenda per il 15 marzo con presumibilmente la comunicazione, la contestazione dei reati tra cui l'appropriazione indebita e l'iscrizione nel registro degli indagati. Ha deciso che andrà alla convocazione e nel contempo, accusando molto pesantemente, come dire, l'intrusione nella vita politica della magistratura, ha annunciato che invece non si ritirerà e continuerà la sua campagna e sarà candidato alle presidenziali del 23 aprile e del 7 maggio. E grazie a Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Veniamo alla vicenda di DJ Fabo, perché Marco Cappato è indagato. Dopo l'autodenuncia di ieri, Marco Cappato è indagato dalla Procura di Milano per aiuto al suicidio di DJ Fabo, il quarantenne milanese, cieco e tetraplegico, che ha chiesto all'esponente radicale di accompagnarlo nella clinica svizzera dove ha scelto di morire. Il fascicolo è stato aperto sulla base dell'autodenuncia di Cappato, che davanti ai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano ha spiegato le motivazioni della sua decisione, chiedendo così un intervento del Parlamento per una legge sul fine vita. E proprio oggi, nel primo pomeriggio, i radicali hanno promosso una manifestazione davanti a Montecitorio per sollecitare tempi certi sulla legge per il testamento biologico, ferma alla Camera, dove, sempre oggi, è prevista una riunione dei capigruppo per decidere il calendario dell'aula di marzo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Maria Collins, irlandese e vittima da giovane di abusi ripetuti da parte di un sacerdote, si è dimessa da membro della Commissione internazionale contro gli abusi del clero, promossa e istituita da Papa Francesco. Ne faceva parte dalla fondazione nel 2014. Lo ha annunciato un comunicato della Commissione Vaticana, secondo il quale la Collins accusa frustrazione e mancanza di cooperazione da parte di altri uffici della Curia Romana. Cambiamo argomento e passiamo al sisma bonus, che è al via libera dopo la firma di ieri pomeriggio del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio. Da oggi si può accedere ufficialmente al bonus fiscale previsto dalla legge di bilancio 2017 per prevenire il rischio sismico degli edifici. Il sisma bonus è rivolto a tutti e non solo alle zone colpite dagli ultimi terremoti. È strutturale perché è previsto per i prossimi 5 anni fino al 2021 con uno stanziamento di 1 miliardo all'anno. L'idea iniziale venne dal manifesto che l'associazione ISI, Ingegneria Sismica Italiana, pubblicò nel maggio 2013. Queste le istruzioni per l'uso, spiegate al presidente di questa associazione, Luca Ferrari, al microfono di Anna Marino. Stiamo parlando di un intervento volto alla prevenzione, quindi è rivolto a tutti i cittadini che hanno delle abitazioni nelle zone classificate sismicamente 1, 2, 3, quindi diciamo 4/5 dell'Italia, per intenderci, che hanno il dubbio di abitare in un'abitazione non sicura, non adeguata a sostenere quelli che possono essere gli sforzi previsti da un'azione sismica, per mettere in sicurezza la propria abitazione, che questa sia un'abitazione singola piuttosto che un condominio. E cosa molto importante, la legge di bilancio ha previsto l'estensione appunto degli incentivi anche agli insediamenti produttivi. Quali sono gli incentivi previsti? Laddove l'intervento previsto vada ad innalzare di una classe la classificazione sismica, si ha diritto per un edificio privato al 70% di incentivo sui costi sostenuti sia per la progettazione, quindi il compenso al tecnico, sia per la costruzione. Se addirittura si passa a due classi, si migliora di due classi, questa detrazione arriva all'80%. C'è un limite per ogni unità immobiliare di 96.000 euro. Il calcio, dopo il successo tra le polemiche della Juventus sul Napoli, stasera la gara d'andata della seconda semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Sentiamo. Un nuovo derby in notturna dopo 4 anni, tra elevate misure di sicurezza, le barriere che dividono le curve abbassate, eppure con poco più di 20.000 spettatori sugli spalti. Non bastasse il fatto che Lazio e Roma si giocano una fetta di finale di Coppa Italia, la stracittadina di stasera pesa parecchio anche nel rapporto tra la città e il suo calcio. 770 gli steward impiegati, rinforzate anche le misure antiterrorismo. Poi e soprattutto c'è la sfida, con la Lazio che cerca la rivincita del primo derby di campionato vinto 2-0 dai giallorossi. Inzaghi ci crede. Ho grandissima fiducia perché il mio gruppo è forte, è compatto, non siamo lì per caso in semifinale. Spalletti, da parte sua, più che intimorito, è esaltato dal trittico che vede i suoi dopo la vittoria con l'Inter alle prese con Biancocelesti e Napoli tra oggi e sabato. Questo è il livello di partite, il livello di calcio, il livello di confronto che volevamo raggiungere. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Iniziamo proprio da Napoli e dallo scandalo per il tesseramento nel Partito Democratico che è esploso in queste ore. Poi torneremo sulla vicenda dei due gemellini di Trento. La vicenda ormai la sapete, sui giornali di oggi, di due persone, una coppia omosessuale, una coppia gay, che ha visto appunto il riconoscimento di fatto di questi due figli come loro, come figli di entrambi, non solamente del genitore biologico. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dell'inchiesta a Consip e dell'arresto per l'imprenditore Alfredo Romeo. Ci siamo occupati dei dati dell'Istat su PIL, su deficit e anche sul debito. Lo dico all'ascoltatore che dice: non avete detto che il debito è risalita oltre il 132% del PIL. No, in realtà l'abbiamo detto, le raccomando una maggiore attenzione, non siamo dipendenti del governo come ci scrive, ci siamo occupati dei tesseramenti anomali nel Partito Democratico. A Napoli ci torneremo tra un attimo, di Marco Cappato indagato per la vicenda e per il caso di DJ Fabo, e come avete sentito anche di calcio con il derby che si giocherà questa sera. Venanzio Carpentieri, segretario provinciale del Partito Democratico a Napoli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Ed è proprio da Napoli che parte il nostro giro per l'Italia, per questa vicenda appunto di tesseramenti anomali all'interno del Partito Democratico. A Milano il caso di tessere pagate da qualcun altro, da quel che abbiamo capito. Ci sono anche casi, se non erro a Castellammare di Stabia, no? Di tesseramenti avvenuti, di tessere pagate a centinaia, a decine con una sola carta di credito, Carpentieri. Sì, in questi casi l'esito non può che essere uno solo, vale a dire il rigetto delle richieste di iscrizione. Intanto preciso che sia per la modalità online, telematica, sia per la modalità tradizionale cartacea, quelle che vengono ricevute, presentate e ricevute dagli uffici adesioni sono richieste di iscrizione che vanno vagliate puntualmente per verificare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dal codice etico per poter iscriversi al nostro partito. Esatto, al nostro partito. E devo dire che l'utilizzo della piattaforma telematica è un ottimo strumento per evitare che si verifichino iscrizioni anomale, perché noi abbiamo la possibilità di accertare se il pagamento della tessera è stato effettuato dal singolo richiedente oppure in modalità cumulativa da qualcun altro. E in queste circostanze le richieste vengono decisamente e sicuramente rigettate. Sì. Quindi il filtro preventivo funziona e ci consente di evitare che il tesseramento stesso sia alterato, inquinato, sì, da qualcuno che può avere intenzioni non siano quelle di una reale e genuina militanza nella nostra formazione. Senta Carpentieri, mi pare che nel partito ci siano stati parecchi problemi negli ultimi anni e anche francamente negli ultimi mesi. Noi ci siamo occupati spesso di questa vicenda delle persone candidate a loro insaputa in liste collegate a quelle della Valente. Sì. Apprendiamo che in questa vicenda dei tesseramenti anomali sarebbe coinvolto un'altra persona che alcuni giornali definiscono, aperte virgolette, un capo bastone del Partito Democratico, che sarebbe rimasto coinvolto anche nella vicenda delle primarie del 2011 poi annullate. Insomma, forse bisogna metterci una mano un po' più pesante. Di sicuro le responsabilità dei singoli coinvolti in queste vicende saranno oggetto di una ferma ed inflessibile reazione da parte nostra, dei nostri organismi competenti a irrogare le sanzioni. Intanto io ho già questa mattina chiesto che il circolo di Milano fosse commissariato, il provvedimento di competenza del livello regionale è stato anche già formalmente assunto e la senatrice Graziella Pagano, sì, sarà dunque commissario di quel circolo. Dunque una risposta ferma, pronta, rapida c'è già stata, così come sono stati pronti i nostri interventi nei giorni scorsi ogni qualvolta c'è stato segnalato anche solo il rischio che la campagna adesioni in qualche comune, in qualche circolo potesse essere alterata. Lo abbiamo fatto direttamente come segreteria, lo ha fatto, sì, l'ufficio adesioni provinciale, proprio perché ritenevamo e riteniamo che questa campagna di tesseramento sia una campagna importante, non vogliamo consentire, difendiamo, sì, la dignità e la genuina partecipazione dei nostri, sì, militanti. Carpentieri, mi permette una cosa, sì, mi permette una cosa, qua c'è però, come sempre, quando riguarda la vita dei partiti, in particolare dei grandi partiti come il vostro, c'è sempre questo problema, ossia il fatto che da una parte hai paura a cacciar fuori gente che ti porta dentro voti e tesserati, la dico molto brutalmente perché è così che in qualche modo va detta, abbia pazienza, sì, e dall'altra parte, e dall'altra parte il fatto che magari questa gente non è esattamente affidabile, no, sotto questo aspetto. Penso a questo qua che citavamo, no, coinvolto già nel 2011 e il cui nome è filtrato anche per questa vicenda di Milano, che è questo Michel Di Prisco, non risultava tra i nostri iscritti dello scorso anno. E io sono d'accordo con lei, io non ho dubbi sul fatto che in presenza di simili comportamenti un partito debba essere rigoroso, arrivando anche ad espellere i diretti interessati alla... Ma il coraggio di espellere uno che porta magari 1000 tessere e 2000 voti, ce l'ha un partito oppure no? Perché questo è il tema. Io dico di sì, perché i voti si possono anche portare nelle dimensioni che diceva lei, ma poi bisognerebbe contare anche quanti se ne perdono, soprattutto in termini d'opinione, quando si verificano queste situazioni. Il saldo secondo me è negativo. Ci assicura massima rigidità da questo punto di vista? Assolutamente sì, assolutamente sì. Vi staremo appresso e controlleremo. Grazie Venanzio Carpentieri, segretario provinciale del Partito Democratico a Napoli, e saluto Alexander Schuster, che è un avvocato. Buongiorno, benvenuto Schuster. Buongiorno. Ed è l'avvocato che ha seguito la vicenda di questa coppia di Trento, questa coppia omosessuale che ha avuto un figlio con la maternità surrogata in Canada, sono due uomini, e che ha avuto sostanzialmente il riconoscimento della paternità anche per colui che non è il genitore biologico. L'ho riassunta un po' grossolanamente, perché in termini giuridici, Schuster, le cose sono ovviamente lievemente diverse, però le chiedo di aiutarci a riprendere il filo di questa vicenda, perché qua i titoli dei giornali ci dicono, prendo La Stampa tra i tanti, i primi bimbi italiani con due papà, i giudici dicono sono entrambi genitori, non è il primo caso per una coppia omosessuale, è il primo caso credo per una coppia di uomini, è così? Dunque, beh, sì, se mi chiede se in Italia c'erano altri genitori, diciamo due padri, tali a pieno titolo, cioè non con adozione in casi particolari, che diciamo non dà pienezza alla figura del genitore, in questo caso adottivo, sì, penso, da quanto so io, è la prima volta. I precedenti riguardavano due madri, specialmente erano i casi della Spagna, sì, o della Francia, insomma, in caso di altri miei clienti. Quindi sì, direi che è la prima volta. Sì, è la prima volta. Come avviene questa cosa? Cioè parte tutto da una richiesta di iscrizione in comune di questi due bambini, che sono due gemellini, se non erro, come figli di entrambi, no? Sì, allora guardi, come studio abbiamo lavorato 8 anni sul loro caso, proprio dagli inizi. E ovviamente i bambini, quando sono arrivati in Italia poco dopo la nascita in Canada, sono stati riconosciuti come figli del genitore, del padre italiano, che risultava nel primo atto di nascita, e che era tendenzialmente in questi casi il padre genetico, insomma, quindi non è contestabile in Italia, neanche se si volesse, questo collegamento. Poi attendavamo, diciamo, che i tempi fossero maturi per chiedere all'Italia di aggiungere anche il secondo padre, cosa che il Canada aveva già fatto nel 2011. Poco dopo la nascita, in cui abbiamo provveduto a ottenere riconoscimento anche per il secondo padre. Poi chiaramente la questione giuridica per me era cristallina già allora, però è chiaro che sono due passaggi importanti, cioè uno, dire il fatto di volere un bambino, che è la stessa volontà, per intenderci, che hanno espresso tantissime coppie eterosessuali con l'eterologa, d'accordo, che adesso è anche lecita in Italia, il fatto di dire sì, sono d'accordo a che nasca quel bambino con un apporto genetico esterno alla coppia, sia eterosessuale che omosessuale, questa volontà noi la troviamo nella legge 40 e rende genitori anche in Italia. Quindi non c'è un'incompatibilità di questo principio che esiste in Canada da lungo tempo. E poi chiaramente il secondo, e quindi diciamo, questo principio vale anche per le coppie eterosessuali, sì, vorrei evidenziare, cioè sì, la madre che in Italia non si vorrebbe magari riconoscere perché non ha un legame genetico, sì, non ha partorito, vale per la stessa. Ecco Schuster, però qua lei mi porta su uno snodo interessante, perché la decisione dei giudici da questo punto di vista è abbastanza chiara, nel senso che ci sono un po' di dichiarazioni politiche nelle quali si dice questa è la legalizzazione della maternità, la legalizzazione mascherata della maternità surrogata. In realtà non è così, perché la valutazione dei giudici è una valutazione, come spesso avviene in questi casi, su quello che è il bene per il minore. Esatto. Allora, considero che in Italia è e rimane vietata la gestazione per altri, la maternità surrogata. In Canada è lecita quasi in tutti gli stati da molto tempo, come lo è negli Stati Uniti, come in molti paesi ormai del Sud America, come in tanti anche paesi, diversi significativi paesi dell'Europa e Sudafrica, e potrei aggiungere altri stati che la regolamentano. Chiaramente in queste situazioni l'Italia non può far finta di essere l'unica portatrice di un'unica verità, diciamo anche da tutti poetico, perché nel resto del mondo occidentale queste pratiche esistono da anni e vengono disciplinate. Cosa vuol dire disciplinate? Che possono trovare dei limiti di un certo tipo, ad esempio in Canada non è possibile remunerare la donna, d'accordo? Quindi c'è un rimborso del fatto, ad esempio, che per 8 mesi non lavorerà. Quindi come diciamo, i singoli ordinamenti gestiscano la gestazione per altri è diversa, sì, però molti la fanno propria. L'Italia in questo momento i giudici dicono prendiamo atto che all'estero questo si fa, che dei bambini sono venuti al mondo, che sono cittadini tra l'altro anche di quello Stato, in questo caso il Canada, perché lì sono nati, e quindi è un principio diciamo che risale nei millenni, che uno Stato cerca di rispettare le decisioni di un altro Stato per evitare che uno abbia due identità, due vite, due coppie di genitori diversi, capisce? Sì. L'unico ostacolo diciamo, a sincronizzare l'ordinamento italiano con ordinamenti stranieri è l'ordine pubblico, e la sentenza dice non c'è un problema di ordine pubblico su questo, sì. E il minore va tutelato, perché è chiaro che qui, voglio dire, non è che comparirebbe per altre vie un secondo genitore, o si tutela il minore riconoscendo anche il secondo padre, altrimenti questi minori sono condannati ad avere soltanto un genitore. Sì. Sì, dal punto di vista diciamo strettamente giuridico, poi dal punto di vista pratico, no, di quello che avviene tutti i giorni in una casa, è diverso. Questo lo chiarisco anche ai molti ascoltatori che dicono la vergogna del giudice di quello che ha deciso. Guardate che non è che cambia qualcosa, perché in quella casa continuano a vivere due persone che stanno insieme, che sono innamorate, sono omosessuali, vi piaccia o non vi piaccia, sono innamorate, sono omosessuali, vivono insieme, vivono come padre e padre, e il fatto che il giudice lo riconosca non è una cosa che cambia radicalmente quello che avviene all'interno di quella casa e quello che avviene, perché poi qualcuno come al solito ci scrive e dice ma poi li prendono in giro quando sono fuori, non è che cambia radicalmente quello che succede fuori, perché quello che succede fuori è collegato a una situazione di fatto, e la situazione di fatto è che ci sono due padri. Esatto, guardi, le grandi emozioni le ho viste nei due padri quando ho portato, se non una sorpresa, la sentenza la settimana scorsa. Come dice lei, giustamente per i bambini non cambia nulla, perché erano già i due padri. Chiaramente cambierà quando cresceranno, perché ad esempio non ereditavano, non avevano tutta una serie di diritti che conseguono, d'accordo, allo status di figlio. Sì. Però nella quotidianità l'amore... E poi quello che succede nel caso e poi quello che succede nel caso di morte del genitore biologico, insomma, ecco, che è un altro snodo, no? Posso, diciamo, scenari che potrebbero essere teorici, ma anche ahimè reali, di un decesso del genitore che non è riconosciuto. I problemi dopo che si trova la famiglia a gestire l'altro padre, a volte succede anche la madre, sì. Un caso di questo tipo, insomma, sono drammatici. Sì, possono finire in affidamento addirittura dei bambini in questo caso, insomma, affidamento ad altre famiglie. C'è un automatismo, e quindi bisogna andare al giudice e dire guardi che questo è il genitore di fatto, anche lo Stato italiano ha problemi a riconoscerlo, e quindi poi la soluzione diciamo si trova. Però mi sembra qua, avvocato, mi fa piacere ricordare, a prescindere dal fatto che questo è un argomento estremamente divisivo, come sempre, e come ben sappiamo, abbiamo, ripeto, molti ascoltatori che ci scrivono, alcuni dicono meglio due padri che nessun genitore, altri che ci dicono è una vergogna che vengano affidati bambini a persone omosessuali, questa si chiama eugenetica, eccetera, eccetera. Quindi è un argomento divisivo. A prescindere da questo, vogliamo ricordare che questo è anche il frutto del fatto che una legge che regoli tutto questo non c'è, e quindi nonostante sia stato annunciato un anno fa quando furono approvate le unioni civili, e quindi una legge che per esempio regoli l'adozione tra partner ancora non c'è. La legge non c'è, tanto che il Parlamento intervenga, secondo me dovrebbe intervenire anche sulla gestazione per altri, perché diciamo c'è un rischio di sfruttamento come in tutte le pratiche dell'essere umano, d'accordo? L'Italia dovrebbe però non fare ragionamento, appunto, che ha citato anche lei, insomma, di qualche testimonianza, ma dopo queste voci, insomma, che ha citato, le dovremmo anche in Parlamento, cioè non ci può essere una posizione di chiusura. Non prendere atto che in Portogallo, in Grecia, in Regno Unito c'è una disciplina reale, ma anche in Russia, in Ucraina, anche a Cipro, quindi in altri ordinamenti non c'è, e c'è un rispetto. Quindi l'Italia non può immaginare che il resto del mondo ha sbagliato e l'Italia sia l'unica. Però possiamo, io dico proprio per prevedere, insomma, sì, che vi è consapevolezza della complessità, sì, ma... se parliamo di gestazione per altri, che in alcune parti del mondo vi possono essere situazioni critiche. Allora, se il ragionamento andiamo e la bandiamo, facciamo una moratoria internazionale, non si va da nessuna parte. Gli altri stati che dicono no, ma tu non hai una pretesa etica di intervenire su di me, non ci stanno. Occorre intervenire su un fenomeno che è complesso, come è stato ed è ancora, diciamo, il fenomeno complesso delle adozioni internazionali. Quantomeno Schuster, e qua chiudo con lei perché veramente dobbiamo andare in pausa e poi a sentire che cosa succede sui mercati, quantomeno che si apra un dibattito un po' più profondo sul tema della maternità surrogata, che è un tema che divide tutti a prescindere da, come dire, dagli schieramenti, dalla laicità o dal, come dire, dall'essere religiosi o dall'essere atei, e quindi che si apra questo dibattito. Grazie Alexander Schuster, avvocato, per essere stato con noi. Adesso andiamo a sentire cosa succede sui mercati, e poi dopo ci ritroviamo per una vicenda che arriva da Genova, dove Nel 2013 gli autisti del trasporto pubblico hanno fatto 5 giorni di sciopero selvaggio. Selvaggio vuol dire si sono fermati senza preavvertire. Il prefetto li ha precettati e il TAR, il solito TAR, ha deciso che no. Invece no, il prefetto non doveva precettarli perché comprime il diritto di sciopero. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto è metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: corruzione in manette l'imprenditore Alfredo Romeo nell'inchiesta Consip, la stessa nella quale sono coinvolti Tiziano Renzi e il sottosegretario Lotti. E tesseramenti anomali sono ancora a Napoli, i problemi del PD nel quartiere di Milano in fila per avere la tessera gratis. L'Istat conferma PIL 2016 in crescita dello 0,9%, debito in risalita, deficit in calo. Il caso di J. Fabo, Marco Cappato, è indagato dalla Procura di Milano dopo essersi autodenunciato, l'ipotesi è aiuto al suicidio. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo e nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo a Genova. E come sapete io insomma qualche problema sul tema degli scioperi selvaggi ce l'ho e con Andrea Gamba, che è sindacalista della CGIL di Genova, abbiamo avuto modo anche di confrontarci dialetticamente già un'altra volta su questo tema. Gamba, bentornato, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, succede questo. Nel novembre del 2013 c'è questo sciopero del trasporto pubblico locale genovese, che però non è uno sciopero, perché è un'agitazione selvaggia, cioè si fermano tutti, la dico molto semplicemente, senza preavvertire. Il prefetto precetta e dice dovete tornare al lavoro. Il TAR ieri ha dato in realtà ragione a voi, dicendo il prefetto non può precettare in questo modo, non integralmente, perché è una compressione del diritto di sciopero. E però, Gamba, il diritto di sciopero si esercita soprattutto nel servizio pubblico nei termini di legge o no? Allora, c'è la 146 del 1990 che equilibra il diritto di sciopero con il diritto del cittadino ad avere la prestazione del servizio pubblico, in questo caso del trasporto pubblico locale. Quello che è avvenuto ieri, il TAR, poi naturalmente le motivazioni noi dovremo confrontarci con gli avvocati che hanno seguito e hanno redatto poi questo percorso nel dettaglio di quello che dice, però in sostanza dice che l'ordinanza prefettizia, su questo che abbiamo basato noi la causa nei confronti al TAR, dice sostanzialmente che l'ordinanza prefettizia è troppo generica e troppo estesa e questo determina il fatto che va contro il diritto costituzionale di poter esercitare lo sciopero dei lavoratori. Cosa vuol dire? Che ora confrontando i primi ritorni che abbiamo avuto, che la prefettura in sostanza doveva emanare una precettazione indicando i nominativi dei lavoratori che dovevano prestare la loro attività lavorativa nelle fasce di garanzie che sono previste. In questo modo si ottemperava. Cioè, però lei capisce Gamba, c'è una cosa che mi lascia molto perplesso in tutto questo, ed è a questo punto io nel trasporto pubblico locale, così come nei servizi pubblici, si può fare uno sciopero selvaggio comunque, tanto il massimo che può fare il prefetto è impormi delle fasce di garanzia, esattamente come succede per uno sciopero proclamato prima, e quindi non cambia niente, cioè di fatto è una legalizzazione dello sciopero selvaggio. Allora, ripeto, naturalmente vediamo con più esattezza cosa dice naturalmente il TAR con gli illegali. Io non sono illegale sotto questo punto di vista. Effettivamente può aprirsi questo tipo di scenario. Lei all'inizio citava lo sciopero selvaggio. Oggi il TAR sancisce che selvaggio non si può mettere, o perlomeno se vogliamo non possiamo più chiamarlo selvaggio, in sostanza. No, possiamo più chiamarlo selvaggio. Noi non lo chiamavamo prima, neanche prima selvaggio. Però effettivamente lei capisce che dal punto di vista del cittadino, io capisco il suo punto di vista sindacalista, ma dal punto di vista del cittadino mi fa impazzire, perché c'è una regola, ci sono delle leggi che io stesso che devo rispettare, che voi dovete rispettare e che i lavoratori devono rispettare. Ma anche la controparte dovrebbe rispettare. Sì, questa è la motivazione per cui i lavoratori hanno scioperato. Sì, perché poi ho capito, d'accordo, però di quella roba. No, ma io non è che Noi come organizzazione sindacale siamo stati ritenuti responsabili, questo va detto e non è stato detto naturalmente, non credo perché per occultare ma per semplificare. Noi abbiamo pagato come organizzazione sindacale alla commissione di garanzia 105.000 euro perché siamo stati ritenuti responsabili di quell'azione, poi noi non abbiamo ricorso e ce ne siamo stati per quanto riguarda la responsabilità delle organizzazioni sindacali. Poi sotto il piano della tutela dei lavoratori rispetto a quello sciopero abbiamo impugnato il provvedimento prefettizio che era l'oggetto del contendere per le possibili sanzioni. Però noi comunque come organizzazioni sindacali abbiamo pagato 105.000 euro. Non è che la cosa non è, diciamo, non è successo niente, è successo che le organizzazioni sindacali sono state responsabili. No, ma voi, i lavoratori hanno pagato perché poi le organizzazioni sindacali stanno in piedi col contributo che versano i lavoratori. Però la genesi di quella roba lì, torno a ripetere, era che in qualche modo accordi che in qualche modo erano stati sottoscritti dalle controparti comuni, in questo caso comune di Genova, non erano stati rispettati. Sì, sì. Gamba, poi, ne avevamo anche parlato. Perché sennò poi sennò sembra che i lavoratori di MT siano dei matti. No, no, non però, sono dei matti, anche però capisce, capisce, io da un momento all'altro, sì, però Gamba, qua devo chiudere, e la ringrazio, però capisce che il problema è poi alla fine che io la mattina dopo cerco di andare al lavoro, mi sveglio alle 7, esco e l'autobus non c'è. Comunque la ringrazio, grazie Andrea Gamba, sindacalista della CGIL, per essere stato con noi e magari di questa vicenda torneremo a parlare. Il nostro giro tra i comuni colpiti dal terremoto. Nicola Alemanno, sindaco di Norcia, buongiorno, benvenuto, siamo in provincia di Perugia. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come vanno le cose? Ieri abbiamo parlato col sindaco di Visso e ci ha risposto testuale, la prima risposta che ha dato è non vanno. Che ci dice lei? Ma io sono un pochino più ottimista, i nostri concittadini guardano a noi per nutrire speranza rispetto al loro futuro e noi non abbiamo la possibilità di permetterci il lusso di non essere ottimisti, ma questa mia dichiarazione, che può sembrare una dichiarazione di principio, è invece in realtà fondata su ragioni di carattere oggettivo. È evidente che se lei mi chiede ma avreste potuto fare di più, avreste potuto fare meglio, avreste potuto fare cose diverse, sì, sicuramente sì, tutto è sempre opinabile, però non dobbiamo mai dimenticare che stiamo a pochissimi mesi dal terremoto e noi qui quantomeno viviamo una condizione in cui io esco adesso dall'ennesima inaugurazione del sesto modulo dei container collettivi. Domenica consegniamo altre 20 casette, tra 15 giorni ne consegneremo altre 63. È evidente che questo non fa, non migliora la condizione della sofferenza delle nostre persone, della nostra gente, però insomma guardiamo anche alla primavera, quindi abbiamo in qualche modo superato i terribili giorni. È passato il freddo, dice lei. Senta, sindaco, dall'altra parte, sia il sindaco di Visso, ma non solamente lui, l'allarme è stato lanciato un po' da varie parti, è quello un po' delle pastoie burocratiche nelle quali sono costretti i sindaci a fronte di questa ricostruzione, cioè di provvedimenti varati dal governo che in realtà invece di semplificare le cose le hanno un po' complicate. Ma allora, questa situazione, anche questa è vera in parte, ossia come sempre difficilmente si riesce con un unico provvedimento a centrare immediatamente la situazione. Io, dopo che il primo ministro Gentiloni ha fatto visita nei nostri territori la prima volta e ha ricevuto dal sindaco tutta una serie di osservazioni, queste poi sono state immediatamente recepite dal punto di vista politico e tradotte anche nel nuovo decreto. Una su tutte, noi in quei giorni avevamo in corso una gara per le opere di urbanizzazione delle SAE, alla quale, non avendo deroghe ai sensi della 50, avevano partecipato 478 imprese per fare l'affidamento. Immagini che abbiamo dovuto aprire, in questo caso la regione dell'Umbria ha dovuto aprire 478 buste, verificare 478 documenti, protocollarli. Quindi un lavoro immane, in tempo di emergenza. Questa situazione ci ha fatto perdere 20 giorni e questi 20 giorni ovviamente in tempo di pace non sono nulla, in tempo di emergenza rappresentano sofferenza per le popolazioni che sono fuori. Però, però complessivamente, sindaco, mi sembra di capire, non negativo come abbiamo sentito da altre parti. Io la devo ringraziare, la devo veramente salutare. Grazie Nicola Alemanno, sindaco di Norcia, in bocca al lupo e buon lavoro. Noi proseguiremo poi nei prossimi giorni il nostro viaggio tra i comuni terremotati. Noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Poi Mario Platero, che oggi ha una sorpresa particolare. Non so se vi piacerà. Vedremo, ci risentiamo alla fine per i saluti.